Esatto, siamo qui stasera perché sabato e domenica faremo due concerti storici con la nostra storicissima band attiva da 33 anni e quindi vi presento quattro dei sette componenti. Uno è Matteo Bortolini, che si esibirà al basso. Ciao. Poi c'è Gabriele Mine Bufalini, che si esibirà se si esce alla tastiera. Improbabile. Che è il tastierista delle Fave di Fuca. E Amedeo Tita, che è il cantante insieme a me. È una band di sette elementi, facciamo rock, siamo nati nel 91 e sabato, in occasione del centenario del Righi, faremo un concerto mega al 707 il giorno dopo al Bravo Caffè. Porte libere, tutti quanti possono venire, ovviamente. Allora, al 707 lascio la parola. Al 707 è per gli ex studenti del Righi. Ok, perfetto. Poi noi siamo inclusivi. Anche ex studenti storici? Ma ci vuole la tessera? Anche, no, non ci vuole nessuna tessera. Tu è una festa Righi, Stefano? Degli ex studenti del Righi. Noi però siamo inclusivi, quindi... Ok, allora tutti quelli che hanno fatto finta, che stanno facendo finta di fare Righi, possono un'autocertificazione. Un'autocertificazione. Ci si iscrive dalle, a che ora è l'iscrizione per la sera? Dalle 21 arrivano quelli dopo cena, diciamo. Le cene sono già esaurite da molto tempo. Ok, le cene già basta. E invece al Bravo Caffè c'è ancora qualche posto. Perfetto. Tipo tre posti, ok? Se scrivete subito al 333-180-9494, forse, se rispondete a una domanda che la Simona Pinelli vi sta per fare, potete vincere un posto al Bravo Caffè? Allora, vincere non lo so, perché Max Catering non fa lo sconto neanche a noi, che praticamente... Però se volete venire nei pochi posti, la domanda è: dovete conoscere le Fave di Fuca. Se non conoscete la band, almeno conosciate la Fava di Fuca, insomma. No, a proposito della band, volevo anche ricordare quelli che non sono presenti. Vai. Allora, che sono alla batteria Andrea Sbaffi, anche lui ex Righino, diciamo, e alle chitarre Davide Corradi e Umberto Costanzini, che purtroppo non possono essere qui stasera. Tutti ex Righini, tranne me, che sono la wild card, diciamo. Perfetto, perfetto. Trova l'intruso, eh. Fantastico, fantastico. E allora poi però lo studio è abitato da tantissime altre persone. Da tantissime altre persone. E anche un quadrupede. Anche abbiamo una cagnolina piccola, che si chiama Talpa, giusto? Talpa! Che è impaurita, però sta qua sotto e sta tranquilla. C'è anche la Esther. Che però non è quadrupede. E non è, esatto. Puoi anche dire ciao. Vuoi dire ciao? Brava. Talpa, okay. Di ciao. E poi no. Talpa, ma non è mica un gatto, miau. Talpa è. Sono impaurita, vuole andare a casa. abbiamo degli stampatori qua stasera, che dello studio Talpa, di cui ci dice tutto Agnese. Benvenuta, Agnese. Ciao, sono Agnese Zavoli, collaboratrice di Yasmin al laboratorio La Talpa, laboratorio arti grafiche, e dal 20 al 24 marzo esporremo in via Misa 3A le nostre opere. È una collettiva che sostanzialmente si basa sul rapporto uomo-natura sotto le orme, sotto le parole arte, artefatto, artificio, dove l'arte è il nuovo rapporto che si ha con la natura, l'artefatto è ciò che si fa e l'artificio è la tecnica mediante la quale questa cosa appunto si fa. Ora il professor Stefano Pasquini il vecchio insegnante cioè, si è laureata tipo ieri l'altro. Bisogna dirlo, però un applauso perché Agnese si è laureata. Agnese si è laureata, esatto. Ok, sarebbe stata una conquista. Con 10 lode, naturalmente. Non per merito mio, perché io le avrei dato 109, che è molto punk in tu con cosa ti sei laureato. E per questo era vecchio professore. Perché sto lavorando. Ah, no, così hai lasciato stare perché avevi di meglio da fare. Ti capisco. Ok, scusa, ti ho interrotto. Niente. Vai avanti. Si è menzionato artisti stampatori. In realtà è una definizione un po' più questa qui è un po' più categorizzata, nel senso che si avranno forme d'arte di qualunque tipo di tecnica, di qualunque tipo di corrente, di qualunque tipo di flusso, di qualunque tipo di sentire personale, poiché ciò che è importante è il fatto che se nella natura abbiamo un intreccio di sentimenti, un intreccio di culture, un intreccio di relazioni, un intreccio proprio di nervature, ecco, questo intreccio è stato riprodotto anche a livello di esseri umani. Abbiamo fotografi, abbiamo stampatori, abbiamo persone che installano, abbiamo di tutto e di più, quindi venite in numerosi. Questo è. A tal proposito abbiamo Giuseppe Saporito. Ecco, io sono Giuseppe. Non stare così vicino, perfetto così. Bene. Bello così. Bravo. Allora, sono Giuseppe e in realtà nella vita mi occupo di tutt'altro perché lavoro guidando i treni, ma da poco. Grazie. E da poco ho conosciuto questo magnifico laboratorio atelier che è stato magnificamente presentato e sono stato letteralmente risucchiato in questo vortice creativo proprio nel momento in cui questa mostra si stava creando e in pratica questo mi ha permesso di produrre, diciamo, il mio lavoro in pochissimo tempo e di esporlo. Ma è la prima volta che esponi? Esattamente, proprio così. Okay. È la prima volta, sono un debuttante. Che bello. Grazie. Ma sono gasatissimo, ho già visto in anteprima. Me ne sto accorgendo. Qualcosa. Ci sta, dai. Grazie. Ho già visto. Mostra. Sì, ho già visto in... Poi vabbè, sei in buonissima compagnia, insomma. Sì, esatto, proprio per questo ho già visto. Stasera in particolare. Stasera in particolare, ma anche all'interno non si del sa come si faccia muovere. No, siccome un po' di artisti in mostra li conosco per varie vicissitudini, so che è in buona compagnia. Sì, e ho già visto in anteprima qualcosa che verrà esposto e mi ha colpito moltissimo e infatti non vedo l'ora che la mostra prenda inizio il 20 marzo alle 19. Che è dopodomani. Sì, Il giorno prima della voi primavera. Voi che cosa siete pronti per cantarci? Allora, noi siamo pronti per cantarci. Aspetta, devo mettere assolutamente questo mentre voi vi preparate. Occhio che... Ospiti musicali. Ecco, mi sembrava strano. No, okay. Infatti ci sta. No, allora, volevo dire che se per caso devi far sentire Marco Roma, devi cliccare un pulsantino perché ti ho cliccato per... No, ma quando c'è il basso dentro io... Sto fermo. Okay. No, ti aspetto. Okay, allora andremo, siccome la scaletta sarà lunga e composita, soprattutto lunga quella e composita, non stasera al Bravo Caffè e al 707. Okay, perfetto. Abbiamo pensato che potevamo mettere idealmente, aspetta che aiutiamo qua Mine a sistemarsi, idealmente fare un omaggio a Battisti. Ok, perché? Così, no, vabbè, così. Perché quello che viene scherzo. Meglio con la tastiera e il basso. Okay. No, sta cosa che si avendo i chitarristi, uno che sta a Milano e quell'altro che sta a Tramonte, e i chitarristi erano un po' impegnativi da intercettare. Ma no, perché è un patriota Battista. Patriota. Siccome e poi facciamo un duetto, io e Amedeo, che adesso vedrete che voce che ha. E quindi facciamo Il tempo di morire. Il tempo di morire, ok. Ma tu, i tuoi suoni sono tranquilli? Come sei messo? Ti si sente da Dio? Vedi? Beh, sai com'è? Abbiamo un fantastico microfono appositamente per lui. Cioè, io sappi che questa settimana ho imparato qualcosa di nuovo. No, ho abbandonato il mio microfono. Il microfono con cui parlo per fare la trasmissione. Ma ti si sente benissimo, meritato. Ma molto bene. Grazie. E poi comunque è meglio sentire lei. No, ma infatti. non per volertene. No, Stefano, puoi venire con questo microfono con me di qua. Ok, posso infatti fare non so così. Perché poi... Cioè, il Covid è passato, puoi stare anche vicino a lei. No, è che c'ho un bassista in mezzo. Lo vediamo. Che non ci si muove. Gli ascoltatori di Radio Città Fujiko stasera dobbiamo dire che nello studio è proprio veramente in atto una grandissima scenografia. Infatti mi sono messa la calza leggera. Infatti fa caldissimo. Chi vuole si può sedere. Introduciamo allora questa canzone omaggio. Che com'è che vi chiamate? Scusate. Le fave di fuca. Le fave di fuca. Nate nel 91. Poi nate dopo daremo 91. Un po' di storia. Okay. Mi premo di aggiungere una cosa. Io sono una straniera, ma su Last FM, che è una piattaforma su cui registrano Last FM, certo, esatto, io sono la prima ascoltatrice di Battisti. E noi ti amiamo tantissimo. Oh, fantastico. Grande. Perché è vero che Battisti, eh? Vero. Sì, siamo d'accordo. Battisti. E quindi le fave di foca con fuca. Di fuca. Ma perché di fuca. Lei è giovane, non sa cosa sono. Siano le fave di fuca. Non sa. Allora, si possono prendere prima e dopo i pasti. Caramba, che sorpresa! Non sa cosa sono. Molto adesso bene. Dopo Pasquini lo spiega. Sì, dopo vi spiego cosa visto sono. Visto che sei il prof. E anch'io me lo ricordo. Ti tocca a te, farla. Molto bene. Allora abbassiamo la musica di sottofondo, CD1 stavolta, e andiamo a sentire le fave di fuca. Basso c'è. Ah, tutti gli altri devono stare silenziosissimi. Saremo silenziosi. Non ci sei? Calpa, silenzio, eh. Occhio, occhio. Adesso ci sei? Fai una prova di basso. Io ti, sì, ti si sente. Sì. No, no, no, quello. Senti. Stupito, perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, come se tu non avessi detto niente, ti sei innamorato, cosa c'è che non va, io dovrei perciò soffrire da adesso. Per ragioni ovvie di orgoglio e di sesso, e invece niente no, non sento niente no, nessun dolore, non c'è emozione, non c'è tensione, nessun dolore. Deciso, combattuto tra l'abbracciare me o la vita, ti ricordi i miei silenzi pesanti che ritenevi gelosie per inesistenti amanti. Già allora io intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile terra coerenza di bambino senza troppa pazienza, e invece niente no, non sento niente no, nessun dolore, non c'è emozione, non c'è tensione, nessun dolore, sento niente no, non sento niente no, nessun dolore. Non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Ci stava bene con la chitarra, comunque. Non avercela. Non ci sono. Se lo dicevate la portavo io, dai. Sai suonare? Cosa vuoi che ci voglia fare questa canzone qua? Andiamo avanti? Andiamo avanti, facciamo un siparietto, scusa. Le fave di fuca il 23 marzo. Arrivo. Il vetro non è rotto da un sasso, ma dal braccio esperto di un ingenuo gradasso. L'applauso per sentirsi importante, senza domandarsi più per quale gente. Tutte le occhiate maliziose che davi erano semi sparsi al vento, qualcosa che perdevi e mi inaridivi, e mi inaridivi, e mi inaridivi. c'è tensione, nessun dolore. Adesso niente, no, non sento niente, no, nessun dolore. Non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore. Un po' di dolore per la mancanza del chitarrista. Cioè, no, più che altro abbiamo fatto nessun dolore invece del tempo di morire, sì, no? Infatti volevo un attimo. Abbiamo dire, annunciato sembra... con anche tutta una disamina il tempo di morire, abbiamo fatto nessun dolore. Ma va bene perché comunque, diciamo che il macro mondo quello è. Esatto. Insomma, Battisti riguarda entrambe l'aspetto della sofferenza. Io avevo sentito Battisti e sono andato su Battisti. E hai fatto benissimo perché così ce la siamo tolta. Simona, è che quello di sto basso non è molto punchy. Simona, raccontaci un po' il nome. Allora, il nome Le Fave di Fuca adesso è una medicina che ad oggi non credo più in commercio. No, è tuttora in commercio. È un lassativo. Perché giustamente Le Fave di Fuca è un gruppo che fa, nascono nel 91 da appunto ex Righini, di cui uno è appena uscito perché lui aveva 18 anni. Sì. Io sono arrivato dopo. Ah, è arrivato dopo, è vero, ma poco dopo. Io sono arrivata nel 90, nel 91, però poco dopo anch'io. Ed è composto, siamo tutti tra il 69, il più vecchio, e il 72, il più giovane. E negli anni abbiamo praticamente veramente calcato qualsiasi posto dove ci fosse un qualcosa a cui potersi attaccare per suonare. E questa cosa è continuata nei secoli, finché abbiamo fatto 30 anni di carriera insieme, sempre al 707, un paio di anni fa, subito dopo il Covid. Perché poi 30 anni di carriera, dei quali 33 26 da fermi, aspettiche bocconi, no, perché i matrimoni di tutti però abbiamo suonato. Allora, compleanni, e siamo lauree, stati bravi, matrimoni, e poi siccome certi matrimoni li avevamo saltati, li abbiamo poi recuperati e poi siamo stati bravi a sposarci in modo diluito, ma soprattutto a continuare a sposarvi. Sì. Cioè, questa cosa qua mi ha lasciato un po' interdetto. Ebbene sì, sabato mi sposai, ma il mio primo marito è lui, peraltro. Okay. Quindi il bassista è il precedente, nonché papà di Ricky, che salutiamo con affetto, chissà se sarà collegato, non lo sarà mai. Salutiamo, se lo è, si vergogna, che ormai ha 22 anni. Cringissimo. E qui abbiamo un esponente familiare che è la Esther Bortolini, che è la figlia di Matteo, nonché la sorella di mio figlio, che ormai sta crescendo nella musica, cioè, poveretta. Ci mancava solo la Silvia Evangelisti e avevamo tutto l'albero genealogico. Sì, certo, la Silvia Evangelisti, che ogni tanto però viene anche arriva, da te, diluita. Certo. Ho capito. Ma raccontaci una cosa, Simona, quanti gruppi, quante band hai? Allora, perché è vero che sono venuta anche con gli altri. Allora, 3 o 4, dipende un po'. Pensavo che loro non lo sapessero. Non lo sanno. È che alla nostra età, ormai, lo si fa, cioè, si fa per affetto, per divertirsi, sì, no? E quindi abbiamo un po' varie compagini sparse qua e là. Anche lui ha suonato con gruppi a destra, gruppi a sinistra. Abbiamo avuto anche un gruppo a Reggio Emilia. Dipende un po'. Adesso, in questo momento, sono necchianti 3. Però con questo weekend sono solo con Le Fave di Fuca. Quindi questo weekend rimani fino al 20 marzo, o no? Fino al 23. Ci rimane fedele. Esatto. Il 23 al 707 per il centenario del Righi, il 24 dalle 21:30 più o meno al Bravo Caffè. Fantastico. Perfetto. Poi non so se andremo avanti, perché facciamo per fare le prove sembra di fare il G8. Cioè, ci mettiamo dei secoli, c'è questa chat viva da anni in cui ci si comincia a mettere d'accordo a giugno per fare le prove a novembre. No, anche perché comunque, come abbiamo visto, i chitarristi si fa fatica a raccattarli. I chitarristi si fa fatica, sono sparsi per l'Italia, per l'Europa. Ma giusto per sottolineare ancora una volta che mancava una chitarra, Ste? No, vabbè, non è che volevo continuare a girare il coltello nella piaga, ma volevo continuare a girare il coltello nella piaga. Noi siamo in grado di fare musica. Ma se voi siete in grado di fare un pezzo da 3 minuti per poi far partire le pubblicità? Sì. Sì. Sì, tempo di morire, quello che non abbiamo fatto prima. Quello che non avete fatto prima. Sì, esatto. Sì. Che però adesso canta Amedeo, che sta zitto. Hai capito che questa volta ci sei? Che adesso qui canta di più Amedeo, che no, scusa, è stato zitto, ma è bravissimo. No, il basso è già acceso, per cui se parti tu devo solo abbassare questa cosa qua. Cerco di beccare la canzone giusta. Ok, ci siamo. Motocicletta 10 HP, tutta cromata, e tu a 16, sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato e so che guarire. Non dire no, non dire no, non dire no, non dire no. Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare. Stanotte, adesso, sì, mi basta il tempo di morire tra le tue braccia così. Domani puoi dimenticare, domani, ma adesso dimmi di sì. Non dire no, non dire no, non dire no. Prendi tutto quello che ho, ti basta il tempo di morire tra le tue braccia così. Domani puoi dimenticare, domani, adesso dimmi di sì. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Siamo stati nei 3 minuti. Siete stati nei 3 minuti. E quindi adesso mandiamo le pubblicità. Sono Cesare Pietro Iusti e questo è Coxo Spaziale. Ciao, sono Emily. E questo è Spaziale. Vero amore? E questo era Cox Spaziale, siamo tornati in diretta con lo studio pieno di fantastici ospiti musicali e non. Io sono Stefano W. Pasquini. E io sono Mia Daschio Supieni. Aspetta che mi rimetto le cuffie. Che cosa succede adesso? Vuoi menzionare? Ah, giusto. Sì, facciamo questa cosa qua. L'angolo della menzione. Hai le menzioni davanti? Sì. Ok, comincio io. Martedì 19 marzo, che è domani, 18:30, reading di Virginia Farina e Simone Martinetti e Martinetto, in occasione della mostra Istanti di Attilio Melfi a cura di Emanuela Agnoli, grazie, vedi, no, bastava chiedere all'assessora qua. Virginia Farina, poesie, macchie fotografiche, Simone Martinetti alla tastiera e Martinetto, per la durata di circa 30 minuti, ingresso libero fino a esaurimento posti. Questo è la Galleria Studio Cenacchi in via Santo Stefano 63 a Bologna. Martedì 19 marzo invece dalle ore 20:30 al Museo Civico del Risorgimento la prima inaugurazione della mostra diffusa La Pittura a Bologna nel lungo 800, dal 1796 al 1915, a cura di Roberto Martorelli e Isabella Stancari, che salutiamo, che è stata qua la settimana scorsa. Si inaugura con la partecipazione di rievocatori in costume storico l'800 APS che animano quadri viventi ispirati alle opere esposte nella sezione che dà il titolo all'intera rassegna. Tutto questo, posso saltare un po' di spiegazione? Certo. Tutto questo è al Museo Civico del Risorgimento in piazza Giosuè Carducci 5 a Bologna. Se non me lo... E invece mercoledì 20 marzo alle ore 19, cosa succede? Affiamo gli ospiti. Scusate ospiti, che cosa succede mercoledì 20 marzo alle ore 19? Arte, artefatto, artificio, mostra collettiva per celebrare un anno di attività della talpa. E questo è via Misa 3A. Però io volevo i nomi degli artisti in mostra. Li ho chiesti su WhatsApp e non me li hai mandati. Allora, intanto che recuperiamo i nomi degli artisti. Okay. Allora, intanto io vi parlo, sono Fabio. Ciao Fabio. Sono stato fondatore della Talpa insieme a Yasmin. Ok. E praticamente abbiamo avviato questo laboratorio e mercoledì appunto festeggiamo un anno. E io sono sostanzialmente quello che meno artista di tutti alla fine. Ho lavorato con Yasmin sulla sua tesi quando seguiva l'Accademia di Roma. E ha preparato praticamente la sua tesi durante il lockdown a casa mia. Io abito a Forlì. Ah, io capisco. E quindi abbiamo sviluppato un po' di idee, progetti e quant'altro, e adesso abbiamo fondato la Talpa, che mercoledì appunto festeggiamo un anno. Ma tu continui a abitare a Forlì? Sì. In tutto questo? Al momento non sì. È proprio comodo da Forlì, no. A Via Misa, e ci vai tutti i giorni o cosa succede? No, quando infatti non c'è mai. Ah, ecco. Quando posso, quando riesco. Hai sbolognato a Yasmin la Talpa, cioè tutto il lavoro da fare. Beh, io come dire, in questo progetto ho seguito tutto l'allestimento delle opere, mi sono trovato a dover lavorare con tutti gli artisti, alcuni che non conoscevo, mai visti prima d'ora, di cui non sapevo nulla, e mi sono trovato a dover allestire tutto e seguire le esigenze, le necessità di ognuno, di tutte le cose, quindi anche i lavori di Yasmin, oltre a quelli degli altri artisti, che alcuni sono qui, altri li vedrete in laboratorio, a partire da mercoledì fino a domenica. E se volete altre informazioni possono anche consultare www.latalpa.net. Esatto. O venire direttamente a Via Misa 3A giorno, mercoledì 20 marzo alle ore 19 per arte, artefatto, artificio. Io però volevo i nomi degli artisti. Ecco, adesso ce li abbiamo qui. Li sto guardando. Ah, ce li hai? Ce li abbiamo. Ok, sì, che io li sto guardando su Instagram, ma per ognuno c'è un reel ed è scomodice. Come si no, fa? Abbiamo la lista. Più che altro, cioè io annuncio la prima artista che sono io, che è un nome impronunciabile, Yasmin Marzouk Farhani, che sono io. Ah, se non lo sai pronunciare tu, non so chi lo possa sapere. Si pronunciare. Fa fatica, delle okay, volte. Allora, Alessandro Maria Noè De Matti, Alfonsina Sica, Reihane Alihani, Giuseppe Saporito, Agnese Savoli, Astor Menini, Giampaolo Govoni, Renata Giannelli, Manuela Candini, Mahnaz Ehdiari, Paolo Brasa e Muna Mussi. Cioè, siamo... Muna Mussi non è una performer, da quando sì. In qua stampa? È praticamente quello, cioè quello che è la talpa, cioè praticamente allora cos'è la talpa? Magari rispondiamo a questa domanda. Esatto. E cioè praticamente quello che io necessito come artista, come quella che praticamente ha creato questo posto grazie all'appoggio che ha avuto da Fabio e tante altre persone, è stato... Cioè, praticamente ho un'idea in testa, nella mia testa, praticamente grafica d'arte è rimasta ferma qua in Italia. Cioè, perché di solito cosa facciamo noi artisti di grafica? Ma la Candini che cosa ne pensa di questo? Candini dice che sei una meraviglia, ma ovviamente, cioè, abbiamo... come sempre tutti questi insomma cioè, opinioni contrastanti tra noi gli artisti, però la Candini è stata proprio la primissima persona che mi ha appoggiato. Il torchio della talpa è il torchio che mi ha suggerito, la Candini mi ha qua, dato qua stiamo Candini, entrando insomma. In dinamiche dell'Accademia di Bologna, no? Sì, perché Emanuela Candini, che salutiamo caldamente, anche probabilmente ci sta ascoltando, è il motivo per cui la TALP è qui a Coxo Spaziale. Esatto. Quando la Candini dice ci sarebbe qualcosa da proporre, io ubbidisco subito perché conosco la qualità di questa donna. Esatto, cioè, Candini è il mio punto di appoggio praticamente, anche se è cioè, della serie, cioè, lei non lo crede, perché però cioè, è proprio così, la Candini a me mi ha dato proprio la spinta, cioè, perché io ero molto tradizionale nel mio essere, però la Candini mi ha detto questa roba te la devi portare avanti, cioè, quindi cioè, io sono arrivata qua a Bologna e la Candini mi ha detto ti devi dare una mossa per trovare quello che sei tu, quindi cioè, ecco perché cioè, io ho messo anche diciamo il suo nome sul torchio, perché c'è in laboratorio, sì, anche se a lei non piace. E questo scavare ha portato alla talpa? Cioè è per questo che è la talpa? Allora, per questo che la talpa è una domanda un po' più ampia, perché cioè, cosa cerca la talpa? Altri artisti, tanti altri artisti che portano questo pensiero, cioè della serie. Cosa vogliamo fare con la grafica d'arte in Italia? Professor. Ah, io devo rispondere? Cosa, come vogliamo guadagnare? Come volete guadagnare con la grafica d'arte in Italia? È una buona domanda. Cioè cambiare semplicemente secondo me. La risposta è lo scopriremo mercoledì. Esatto. Mercoledì 20 marzo all'inaugurazione della mostra. Perché invece giovedì alle 17 c'è la Fondazione Collegio Artistico Venturoli di Bologna che inaugura la mostra Lo Sviluppo del Talento, che è parte sempre della mostra come si chiamava? La mostra dell'Ottocento. Esatto, il lungo Ottocento, è un Ottocento lunghissimo, che si è la pittura a Bologna nel lungo Ottocento, che va dal 1796 al 1915. Dicevamo, la Fondazione Collegio Artistico Venturoli inaugura la mostra Lo Sviluppo del Talento, progetto espositivo ed editoriale che riunisce opere eseguite nel corso dell'Ottocento dagli artisti bolognesi Cesare Bacchi, Ettore Buttazzoni, Filippo Buriani, Luigi Busi, Cleto Capri, Raffaele Faccioli, Ermenegildo Giorgi, Giovanni Masotti, Giuseppe Romagnoli e Luigi Serra durante il loro periodo di residenza presso il Collegio Venturoli, che come avete capito esiste da un po' di tempo. Questa è in via 100-304, giovedì alle ore 17. E infine giovedì 21 marzo dalle ore 18 alle ore 20, nell'ambito della rassegna dell'Umana Dimensione Arte e Visioni Contemporanee lungo la via Emilia, Studio La Linea Verticale di Bologna presenta dal 21 marzo all'11 maggio 2024 Sagitta, ordinario uomo straordinario, prima personale bolognese di Michelangelo Galliani, curata da Maria Caria Wang con Alessandro Mescoli. Tutto questo a Studio La Linea Verticale, via dell'Oro 4B a Bologna. Poi naturalmente dal 22 marzo sono aperte le altre mostre della mostra diffusa, ovvero l'incredulità di San Tommaso di Gaetano Serra Zanetti, due versioni a confronto, a cura di Mark Gregory D'Appusso. Questo è il Museo Civico d'Arte Industriale Galleria Davia Bargellini in Strada Maggiore 44 a Bologna. Dopodiché abbiamo Mario De Maria, detto Marius Pictor, Ombra Cara, a cura di Francesca Sinigaglia, che abbiamo avuto anche qui. Questo è il Museo 800 Bologna in Piazza San Michele 4C. Poi abbiamo Da Felice Gianni a Luigi Serra, l'Ottocento nelle collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, a cura di Angelo Mazza. Questo a Palazzo Fava, Palazzo delle Esposizioni in via Alessandro Manzoni 2. Ma se volete il programma completo dovrete andare su www.coxospaziale.blogspot.com, dove potete scaricare il PDF, perché ci sono un miliardo di cose, tra cui appunto visite guidate, un giro in Certosa, ci sono un sacco di talk, esatto, e che vanno avanti fino a giugno, per cui puoi fare così, non quello, ma quello di fianco. Basta, sono finite le menzioni, grazie. volevi anche dire quella che sarà? No, questo è un piccolo top secret. No, è la sigla finale, perché a un certo punto li cacciamo fuori da sto studio, perché qua ci sono 85 gradi. E Agnese si sta avvicinando, il che mi spaventa. Non vedere la console. Ah, viene a vedere. Ok, infatti, qualcosa infatti da raccontare. Ok. Però apriamo ancora di nuovo la finestra, lo studio, perché secondo me qua i gradi sono sempre più alti. Mm-hmm. E le persone si avvicinano perché hanno bisogno della finestra e dell'ossigeno. E niente, io direi che Simona Pinelli, facci un altro pezzo, o no? Ah, sì, anche aspetta che dobbiamo alzarlo. Lo farei anche volentieri, ma mi è scomparso la materia prima. Il bassista è andato. Mi è scomparso il bassista perché. Eccolo lì. Abbiamo andato a fare un giro. Diciamo che con le. Possibilità che abbiamo, così l'idea sarebbe fare Matte con The Wild Side. Visto che avete fatto tutti i vostri tinti, volevo anche ricordare visto che l'hai evocata anche. Hai ragione. Così il parentado lo completiamo, che la mostra di Mimmo Paladino a Palazzo è prorogata fino al 9 giugno. Devi dire quale Palazzo, perché i nostri ascoltatori sono un po' distratti. A Palazzo Buoncompagni. Sì, via del Monte 1. Ok. A Palazzo Buoncompagni, via del Monte 1. Sì. Tutti gli orari sul sito palazzoboncompagni.it. Ok. Quindi si può visitare la mostra con visite guidate che si possono prenotare sul sito. Vado meglio così. Vai benissimo. Stai andando benissimo. La mostra è prorogata fino al 9 giugno. È una mostra da non perdere, perché è un'antologica di Paladino unica e rara, e curata appunto dalla nostra adorata Silvia Evangelisti, detta anche la zia, nel senso che lo è. Prima di cantare vi devo far sentire una cosa, che è questa. Facci sentire. Ah, ho sbagliato, non ve la faccio sentire, scusate. Cosa è successo? È successo così. Adesso ve la faccio sentire. Buongiorno, oggi vedo te sul tramonto di una collina e sto dritto in mezzo a due fuochi e sto scegliendo forse te, sto scegliendo forse l'amore dritto al cuore. Da Marco Roma, buongiorno. Scatta l'applauso per Marco Roma. Che è sempre più innamorato, è veramente spettacolare. Ok, allora adesso potete fare quello che vi pare. Jack, potete fare anche così. Faccia. Quando siete pronti lo abbasso. Non lo provocare, che lui riesce a fare qualsiasi cosa. No, lo so. Ok, siamo pronti, Vai. Funziona al basso? Ci siamo? No? Non ci siamo? Ecco, ci siamo. Adesso ci sei. Sento anche la tastiera bene. Bella, è un bel suono, Sì, ci sono. Aspettavo che si sistemasse. A me fai un po' paura così vicino a quel microfono. No, ma questa è calma. Only came from Miami, FA. Hitchhike way across the USA. Oh, black umbrellas on the way. Shave your legs and then you wash his say, baby. Take a walk on the white side. Hey, honey. Take a walk on the white side. Candy came from out of the island. In the back she sees everybody's darling. But she never lost her head, even when she was giving ashes. She says, hey baby, take a walk on the wild side. Say, hey Joe, take a walk on the wild side. And the color gets go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Little Joe, never one gives it away. Everybody had to pay and pay. And I see here and that's the day. New York City is the place, as I say, baby. Take a walk on the white side. I say, hey Joe, take a walk on the white side. That's right. Jackie is just speeding away. Thought she was just in just for a day. But I guess she had to crash. Valium would help and that she says, hey baby, take a walk on the white side. Say, hey honey, take a walk on the white side. And the color gets go to do, to do, to do, to do, to do, to do, to do, to do, to do, to do, do, do, do, do, do. Finisce così? Possiamo andare avanti tutta notte se vuoi. Non abbiamo fretta. Grazie al coro della talpa. Come a Sanremo. Vogliamo l'occasione per invitarvi alla mostra. Dovrei venire per forza a sto punto. Via Misa 3 barra. Via Misa 3 sì. barra. Adesso. Forse. Esatto. Adesso arriviamo tutte le fave di fuca in massa con anche le chitarre. Io vorrei sapere qualcosa da Esther. Esther, che cosa ne pensi di questa puntata? Sei te. Ti piace? Sì. Hai mi fatto piace molto. Oh. Ma e invece questa cagnetta che c'hai sotto le gambe ti piace anche lei oppure? È molto carina. Molto carina. E sai come si chiama? Sì. Come si chiama? Oh. Perché a Esther la musica piace un sacco, vero amore? A parte che canta anche benissimo, sa cantare un sacco di pezzi. Sa cantare tutto Sanremo 2004. Tutto 2004. Dal 2004. Quando avevi meno 20, meno 18 anni. Quando aveva meno 18 anni. La talpa qua ci deve raccontare qualcos'altro. Sono un po' qui voglio dire, fa un esordio, soprattutto l'esordio qua, il suo. A me esordio. Mi incuriosisce molto. Posso fare una domanda io? Visto che lui ha esordito con Guido i treni. E uno già si predispone con curiosità. Certo. Poi cioè, dal guida, cioè questa passione che ti ha portato poi a fare questa prima mostra, da dove nasce? Come fai ad avercela? Allora, io sono appassionato d'arte da sempre. Ecco, da già questa cosa Esatto. Perché hai esordito con io Guido i treni e ti ha detto. Cosa ci metterai i fogli sotto le rotaie? Cosa fa? Si potrebbe anche fare. Allora, no, io di lavoro diciamo Guido i treni, però in realtà sono sempre stato appassionato d'arte. Eccoci. E faccio fotografia a pellicola dal 2020. Una passione che avevo un po' accantonato e che adesso invece ho ripreso, e proprio per questo la mia esposizione prevede diciamo delle foto del 2020 e del 2024 dello stesso luogo, anche di stasera, il quartiere del Lazzaretto, e come si è trasformato in questi anni. E allora, interessantissimo, perché è un quartiere molto interessante, soprattutto che ha subito una trasformazione urbanistica impressionante rispetto ad altri. Cioè, sì, io abito tra Via Orfeo e Via dei Coltelli, che grosso modo sempre, quello sempre sono. Invece Lazzaretto proprio in questi pochi anni si sta trasformando parecchio. E diciamo il tema di tutta la mostra è il rapporto tra l'uomo e la natura. E io in questi pochi giorni, dovendo trovare un'idea, non ho potuto fare a meno di ripescare le vecchie foto che avevo fatto nel 2020 del bosco che c'era al Lazzaretto e che ho scoperto in occasione del lockdown. Io credevo fossero degli alberi così, pochi alberi, ma in realtà durante il lockdown ero evaso dalla prigione domestica, avevo scoperto un bosco immenso che portava fino al canale della Ghisiliera. Occhio che le multe sono retroattive, se esatto. Lo dici adesso ti arrivano 500 euro lo stesso. Era per arte, siccome lo faceva con un intento artistico, esatto, e valeva come fare l'attività fisica. Quindi aspettare 10 anni di prescrizione. Ma in realtà ero giustificato, anche perché nel mio quartiere all'epoca non c'era praticamente nulla, quindi per raggiungere anche soltanto il primo esercente ero costretto comunque a passare per il bosco del Lazzaretto, quindi siamo già salvi. In questi anni non sono più tornato al bosco, perché poi sono stato ripreso dal tram tram lavorativo e letteralmente tram tram. però ho vinto la nostalgia, ho deciso di ripasseggiarci e ho scoperto, diciamo, che è un luogo che è praticamente cambiato, profondamente cambiato, e cambierà nel corso di questi anni. E alla Talpa ho intenzione, assieme a Yasmin, di costruire una camera oscura, e proprio per fare lo sviluppo delle foto in autonomia e progredire, diciamo, in questa passione che ho. E certo, perché non è solo uno spazio espositivo, ma è un vero e proprio laboratorio di produzione creativa. Esatto, perché poi comunque di mostre ne abbiamo fatte fino adesso 3, se vogliamo proprio contarle. E quello che si fa alla Talpa è proprio questo: prendere i personaggi che vogliono dare una vita alla loro creazione, che questi personaggi non per forza devono essere gli artisti, ma sono anche personaggi normali che hanno una storia da raccontare. E quindi adesso abbiamo anche, ad esempio, Alfonsina Sica, che io l'ho costretta di andare nello sgabuzzino a prendere le sue lastre che non voleva toccare da tanto tempo, che perché cioè, aveva questa cosa che si sono rovinate le mie lastre. Ho detto no, Alfo, io voglio proprio quelle, cioè lei è andata lì e espone quelle di lastre, capito? Cioè della serie, cioè io sono là a catturare le persone, cioè che... non sei una curatrice, sei una dittatrice, insomma. Esatto, questo lo possono confermare, no, tutti, più che dittatrice per questo, cioè... una spronatrice. Ok. E io devo fare le tue veci e mandarvi fuori da questo studio. Vi ringrazio tantissimo, però Cocco Spaziale è finito, andate in pace. E io vorrei ringraziarvi. Io faccio un appello tutti per la Talpa, perché quando ci sono queste iniziative di ragazzi, poi già per adesso voi non li vedete, ma di ragazzi, no, se andate su Instagram vedete la foto di ragazzi giovani, cioè è una bambina che ha già questa testa qua, questa che ancora ti chiama prof, capito, che ancora si è liberata del cordone ombelicale. Andateli a vedere, andate a scoprire questi posti. Grazie. Sono quelli che valgono la vita, valgono il vivere a Bologna, sì, veramente, rispetto ad anche perché valgono c'è vivere a Bologna. Tanto impegno in quello che, cioè, io voglio dire questo: il tempo di essere umano è quello che vale più di tutto. Cioè io ci ho messo veramente tanto, ma tanto impegno e tempo. Sono arrivata qua in Italia che veramente non ero nulla. Cioè sono arrivata qua 3.000 euro e dovevo fare veramente tutto, ma è costruito proprio tutto questo, cioè io ne vado fiera, fierissima, e vorrei che questa cosa... E fai bene. Cioè quindi... Tutti alla Talpa mercoledì. Noi, sì, noi siamo qui a fare martedì. Cioè, scusa. Non fate altro. Mercoledì. Mercoledì, venerdì e sabato e domenica, venite, esatto, tutti i giorni. Dalle 19 di mercoledì. In via Misa 2, via Misa 3, Fossolo 2. Poi andate in via Misa, poi sperate. Invece troverete un po'. Il concerto delle fave di Fuca è giovedì. No, sabato al 7:07 e domenica al Bravo Caffè. Oh, così. Oh. Gli ultimi due concerti delle fave. Sì, no, perché non ce la fa. No, vi giuro che fare le prove delle fave di Fuca, il G8 è più facile, ma molto più facile. Io vi ringrazio di nuovo, questa era Cocco Spaziale e ci salutiamo con le parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Tu hai ancora va ne sono andato via, ma ritorno. Vorrei quella forza per dirti che è sempre stata colpa mia e che non è un vanto. Ma tu hai ancora voglia di credere che la nebbia è una bugia. Che stiamo ascoltando è il nuovo singolo di Noi Te, in uscita oggi per Capitol Records, Pioggia Rossa Dischi, si intitola Diventano Bosco, e naturalmente ringraziamo Agnese di Per Press per la segnalazione. Olè. Diventano Pasqua.